24 mattino. Sono le 8 e 19 minuti, tra qualche istante eccoci qui con 24 mattino. 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi ed è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Alessandro, buongiorno, sei spaventato stamattina un po', eh? Spaventato, sì, non ti trovavo in redazione, la cercavo dappertutto, era seduta comodamente in studio, quindi, giustamente qui. E vabbè, e allora, oggi parliamo di casa, un tema che abbiamo già affrontato in passato. Sì, un tema che ci piace molto, che piace molto ai nostri ascoltatori e le cui dinamiche osserviamo molto attentamente, perché abbiamo seguito negli ultimi anni come siano cresciute le quotazioni del mercato immobiliare per quello che riguarda le compravendite e di conseguenza anche i canoni di locazione. Come sappiamo bene, invece, da un anno e mezzo circa il trend si è completamente invertito, sono drasticamente scese le compravendite immobiliari nel nostro paese. Stanno scendendo anche i prezzi al metro quadro nelle grandi città, naturalmente. Tutto questo sta comportando anche un calo dei canoni di locazione. Questa è una buona notizia, una cattiva notizia? Non lo sappiamo, sicuramente dipende dal punto di vista da cui la si guarda. A noi sembra tendenzialmente una buona notizia se è un indice di stabilizzazione, normalizzazione di questo mercato immobiliare che appunto è cresciuto molto anche nel nostro paese, fino a volte a portare anche degli eccessi in alcune città. Comunque, cosa stabilisce un'indagine che ha presentato di recente l'ufficio studi di Tecnocasa, che è il più grande network immobiliare del nostro paese? Questa mattina ce lo racconta la responsabile dell'ufficio studi, la dottoressa Fabiana Megliola, che saluto e ringrazio di essere con noi a Soldi e Dintorni. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, secondo la vostra indagine, che riguarda in particolar modo il secondo semestre del 2008, c'è stata una contrazione in questo periodo dei canoni di locazione, come dicevo, dell'1,3% per i bilocali e dello 0,7% per i trilocali. Ovviamente immaginiamo che sia un trend, una tendenza che non riguardi in maniera omogenea tutte le città italiane, dottoressa Megliola. Allora, la diminuzione dei canoni di locazione ha interessato un po' tutte, diciamo, le realtà italiane, sia le grandi città che i capoluoghi di provincia più piccoli. Nelle grandi città noi abbiamo registrato un calo dell'1,9% per i bilocali e di un 2% per i trilocali, quindi come può vedere sono delle contrazioni abbastanza contenute. Nelle grandi città segnaliamo che quella che ha avuto il calo più sensibile è stata Bologna, con un calo del 4,2% per i bilocali e del 3,7% per i trilocali. Ecco, tendenza curiosa peraltro per Bologna, visto che la città ha dato che è una città universitaria in cui ovviamente il mercato delle locazioni è molto fiorente, molto dinamico. Sì, questo è vero, perché Bologna è appunto, come dice lei, è una città universitaria, però bisogna dire che su Bologna da alcuni anni a questa parte sta prendendo piede, tra virgolette, la forma del contratto cosiddetto a canone concordato, convenzionato, che prevede tutta una serie di agevolazioni fiscali, eccetera, che comunque è andato un po' a calmierare il mercato. E sicuramente hanno sofferto meno Roma e Milano, comunque le due grandi metropoli per eccellenza, fondamentalmente. Certo, io immaginavo che ovviamente la discesa dei prezzi potesse riguardare le case, perché dati i canoni piuttosto alti i proprietari non riuscivano a collocarli sul mercato ai prezzi richiesti. Vedo invece dalla vostra rilevazione che scendono anche i prezzi e i canoni di affitto delle case già occupate, perché i proprietari in qualche modo vengono incontro alle esigenze degli inquilini, che forse con la crisi economica sono cambiate. Sì, questo è uno degli elementi che ha contribuito a, se vogliamo, a ridimensionare un po' i valori di mercato sugli affitti. Infatti le due motivazioni fondamentali, diciamo, che hanno portato a far sì che si delineasse questa situazione è stata, da una parte, l'offerta presente di immobili in affitto sul mercato, che era un po' il risultato di quella corsa all'investimento che c'era stato durante il boom del mercato immobiliare. Quindi, anche se noi abbiamo avuto negli ultimi due semestri un aumento della domanda di immobili in affitto, l'offerta presente sul mercato è riuscita in qualche modo ad assorbire questa maggior domanda. Dall'altra parte c'è proprio quello che diceva lei, cioè il fatto che i proprietari si rendono conto che se poi chiedono dei canoni di affitto troppo elevati, il rischio è che magari l'inquilino nel corso del periodo stabilito possa non pagare l'affitto, quindi si trovano con un immobile diciamo, sfitto per alcuni periodi, devono riaffittarlo e altre difficoltà, cosa che se possono evitano. E questo lo hanno compreso, se vogliamo, e quando è possibile vanno, come dire, vanno incontro alle esigenze dell'inquilino, rivedono diciamo, il canone verso il basso rispetto alle richieste iniziali, e questo è stato un altro degli elementi che ha contribuito a far sì appunto che il mercato si ridimensionasse. Insomma, ci sembra un atteggiamento di totale responsabilità, certo, per affrontare un po' tutti insieme, certo, una fase dal punto di vista economico delicata come questa. Roma e Milano restano comunque le città più care, dottoressa Megliola? Roma soprattutto è quella più costosa, e poi seguire subito Milano, ma anche abbastanza comprensibile perché sono anche le città dove la domanda diciamo di immobili in affitto è sempre molto alta. Ricordiamo che comunque sono due città che hanno degli importanti atenei, quindi diciamo, la domanda per gli studenti è sempre, diciamo, molto, molto forte. E poi sono anche due città che diciamo, attirano lavoratori fuori sede, no? Con le aziende, eccetera. Per cui questo è un altro elemento che in qualche modo contribuisce a far sì che la domanda sia sempre sostenuta. Delle tendenze interessanti da rilevare per quello che riguarda il Sud Italia, per esempio, ci sono per il mercato dell'affitto e delle locazioni? Ma no, il Sud Italia diciamo che ha avuto un comportamento abbastanza, diciamo, normale. Anche nel Sud Italia, ad esempio Napoli, i grandi centri, no? Che hanno anche lì dei poli universitari, eccetera, hanno avuto un comportamento abbastanza diciamo, in linea con quello delle altre città. Sicuramente sono meno costose a livello di canoni rispetto a Milano, Roma, per cui diciamo, questo è un elemento da valutare. Abbiamo visto negli ultimi mesi come, per concludere mediamente un contratto di compravendita, i tempi si siano allungati notevolmente. Per quello che riguarda invece la conclusione di un contratto di locazione, dottoressa Megliola, la situazione qual è? Sulle locazioni non c'è stato questo, diciamo, allungamento come si è avuto sul mercato delle compravendite, anche perché sulla compravendita poi abbiamo visto c'è molta trattativa, no? Sui prezzi richiesti, e per cui i tempi si sono allungati notevolmente. Sul mercato delle locazioni non abbiamo rilevato grandi novità a livello di, diciamo, di aumento di tempistiche di affitto in questo caso, per cui siamo sui 2-3 mesi più o meno. Ecco, a privilegiare l'affitto mediamente sono sempre appunto magari le figure professionali che devono spostarsi di città per andare, certo, ovviamente a lavorare, i giovani universitari, dicevamo prima, ma per quello che riguarda le famiglie tradizionali invece che mercato è questo, dottoressa Megliola? Sulle famiglie noi abbiamo visto che in questi ultimi due semestri si sono mosse soprattutto le coppie giovani sul mercato delle locazioni, quindi le famiglie nuove, se vogliamo, no? I nuclei familiari appena formati, proprio quelli che hanno avuto magari più difficoltà di accesso al mercato delle compravendite per una serie di motivazioni che non sto qui ad elencare. Quindi diciamo che dalla nostra analisi è emerso che a movimentare il mercato degli affitti nel 2008, quindi nel primo e nel secondo semestre, sono stati soprattutto i single, quindi diciamo i giovani, le coppie giovani che magari non hanno ancora il capitale iniziale per poter comprare, anche gli stranieri, quindi soprattutto quelle categorie che in qualche modo non hanno avuto accesso, hanno avuto più difficoltà di accesso al mercato della compravendita. È possibile fare, per concludere, una breve previsione per quello che potrà essere il 2009 dal punto di vista appunto del mercato delle locazioni? Scenderanno ancora secondo lei i prezzi? Ma guardi, non abbiamo fatto nella nostra analisi, diciamo, le previsioni non prevedono grandi sconvolgimenti, tra virgolette, sul mercato delle locazioni. Prevediamo ancora un lieve ribasso dei canoni, ma diciamo niente di particolarmente. Una stabilizzazione, insomma, come abbiamo definita all'inizio. La ringrazio molto, grazie a Fabiana Meglio, responsabile ufficio studi di Tecnocasa. Alessandro, ti ridò il microfono. Alle 12 Salvernani. Alle 12 oggi parliamo di agricoltura e della campagna di Coldiretti, che si chiama Campagna Amica. In cosa consiste lo scopriremo oggi. Sono le 8:33 minuti, ben ritrovati, uno sguardo alle notizie in primo piano. Veronica Lario deve chiedere scuse e ammettere il suo errore, così Berlusconi ieri in TV ha parlato della sua situazione familiare. Non è vero che frequento minorenni, ha detto, così come non è vero che c'erano veline nelle liste europee. Verrà probabilmente posta la fiducia sul disegno di legge sicurezza in discussione alla Camera. Ieri, intanto, riunione di maggioranza, è stata eliminata la norma sui cosiddetti presidi spia. Resta nel provvedimento il reato di clandestinità. In Afghanistan, un bombardamento americano ha causato ieri decine di vittime nella provincia occidentale di Farah. Per la Croce Rossa Internazionale giunta sul posto, tra i morti ci sono diversi bambini e donne. Infine il calcio, il Manchester United è la prima finalista di Champions League, ha battuto 3-1 a Londra l'Arsenal. Stasera sempre a Londra Chelsea-Barcellona per stabilire la seconda finalista, all'andata finì 0-0. E allora alle 8:34 minuti, 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi. Che ne pensereste di sentirvi dire, se prenotate, che ne so, una mammografia, e dire, sentirvi dire passate tra 420 giorni, oppure un eco Doppler, ripassi tra 720 giorni, che poi fanno 2 anni, è successo a un cittadino di Crotone. Ma sono solo alcune delle denunce arrivate al Tribunale del Malato, cittadinanza attiva, e che compongono il rapporto PIT Salute, che verrà presentato proprio questa mattina. Ovviamente liste d'attesa per le prestazioni, per gli interventi chirurgici in primo piano. Voglio salutare Francesca Moccia, che è la coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato, coordinatrice nazionale. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, dati incredibili, io li ho visti anticipati, insomma, stamattina poi li spiegherete bene regione per regione, città per città, prestazione per prestazione. Qual è il dato che emerge più incredibile, insomma, delle liste d'attesa italiane? Il dato più incredibile lo citava lei, ed è il numero di giorni di attesa per degli esami diagnostici o delle visite specialistiche, che effettivamente rende l'accesso alle cure per i cittadini italiani davvero, davvero difficile. Ecco, 720 giorni per un eco color Doppler, la dice tutta, una mammografia 420 giorni, insomma, ecco, sono dati che parlano da sé e sono particolarmente concentrati nelle regioni del sud, Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata in particolar modo, ma le cose non vanno benissimo neanche al centro, nelle Marche, nell'Umbria, nell'Abruzzo, anche in alcune regioni del nord come la Liguria, anche la Lombardia. Ovviamente sicuramente dati allarmanti. L'alternativa d'altronde è pagarsi la sanità privata, non tutti se lo possono permettere, e quindi queste sono le attese della sanità pubblica. Ci ha già detto, insomma, quali sono le regioni. In genere si può dire un'Italia divisa, cioè al sud va peggio rispetto al centro, rispetto al nord? Quali sono le situazioni più critiche che avete notato? Sono un po', come le dicevo, soprattutto concentrate al sud, ma anche il centro e il nord ha problemi. Poi ci sono delle ASL particolarmente virtuose che hanno messo in campo delle azioni che riescono ad affrontare meglio il problema. Però per esempio, la denuncia che noi facciamo oggi è forte, cioè, di fatto c'è una legge nazionale che è violata, c'è una legge che stabilisce tempi massimi essere applicata in tutta Italia e che non lo è, di fatto è violata, di fatto non sono applicate sanzioni, non è mai realizzato il monitoraggio dei tempi massimi previsti, quindi siamo di fronte a una situazione in cui il cittadino è impotente, ma la legge non la rispetta nessuno. Allora, visto che ci ha detto un esempio virtuoso, quale ASL, quale regione, quale... Ma è un po' a macchia di leopardo, noi non abbiamo dati così dettagliati e soprattutto abbiamo i dati rispetto a dove le cose non funzionano, ecco, come che le dicevo. Poi ci sono diverse esperienze, qualcuna sicuramente in Veneto, ma non voglio fare torto a qualcun altro che anche nelle regioni del centro, anche la Toscana ha preso delle iniziative. E guardi, ecco, tra l'altro, comunque è un problema che a macchia di leopardo riguarda anche le regioni in cui le cose vanno meglio. Visto che lei ha citato la Toscana, io voglio salutarne l'assessore regionale alla salute, al diritto alla salute, Enrico Rossi. Assessore, buongiorno. Buongiorno. Allora, una delle iniziative che ha fatto la Toscana un paio d'anni fa, ma poi si è estesa nelle varie regioni, molto interessante, è questa. Le liste d'attesa, il cittadino le prenota una visita, prenota un intervento, poi non va, perché magari non va, cambia idea, oppure ci sono i furboni che prenotano da 2 o 3 parti e poi decidono di andare da quello che gli ho da prima. Se non ti presenti, la regione che fa pagare il ticket comunque. Sì, diciamo, c'è una reciprocità però, perché altrimenti saremmo punitivi soltanto. Noi abbiamo individuato 7 prestazioni specialistiche fondamentali, quelle, diciamo, di maggiore impatto per la salute, di maggiore rilevanza per la salute, e abbiamo detto che queste devono essere erogate naturalmente non potendo scegliere il professionista, perché non c'è data la possibilità di duplicare professionisti, devono essere erogati all'interno dell'azienda, e quindi può capitarti in un punto oppure in un altro, in una città oppure in un paese dove c'è un distretto, entro 15 giorni, e sono le prestazioni fondamentali, insomma, quelle oculistica, la prestazione della visita ortopedica, sì, l'otorinolaringoiatria, la cardiologia, la neurologia. Su questo noi ci siamo, ecco. Se non riusciamo a dare entro 15 giorni la prestazione, rimborsiamo anche noi il ticket ai cittadini. Se però è il cittadino a fare il furbo, se il cittadino si prenota e poi non si presenta, gli mandate la multa. Con questo, non ne aveva tanto bisogno. Non ne aveva tanto bisogno, oppure ha fatto qualcuno dove non c'è il centro unico di prenotazione, per esempio. Si prenota presso un parrucchiere, se lei prenota il suo parrucchiere, non va perché magari le è capitato qualcosa, alza il telefono e dice: guardi, io non posso venire. E in questo modo il suo parrucchiere è contento e qualcun altro si fa capelli. Beh, così avete anche ridotto un po' le liste d'attesa, no? Avete ridotto con questo le liste d'attesa, perché ovviamente... Beh, insomma, le aziende sono state impegnate molto sul primo punto, insomma, trovare un'organizzazione, fornire al cittadino un'offerta che dentro 15 giorni consenta queste visite specialistiche di base, le quali peraltro bisogna aggiungere sono un passaggio fondamentale anche per la specialistica diagnostica, perché insomma accedere a occhi chiusi a tutte le prestazioni diagnostiche non fa nemmeno molto bene. Se invece tu garantisci prima la visita specialistica come passaggio poi per un approfondimento diagnostico successivo, insomma, diciamo che dai medici è considerata una procedura solitamente più corretta. Allora, tra l'altro, visto l'abbiamo raggiunto, invece abbiamo problemi per quanto riguarda risonanze magnetiche, per quanto riguarda TAC, per quanto riguarda anche noi, ecco, con lo DOP, naturalmente con una situazione differenziata da azienda a azienda. Abbiamo fatto un grande investimento per l'acquisto di tecnologie che proprio adesso si sta realizzando, quindi nel periodo d'estate, entro l'estate avremo ben 15 risonanze magnetiche. Con la speranza dunque di ridurre ulteriormente le liste. Abbiamo qualche elemento di criticità, insomma non siamo perfetti, bisogna saper monitorare continuamente la situazione. Ma sicuramente, assessore, però mi faccia chiedere questo, perché oggi la troviamo lei citata sui giornali per un'altra vicenda, anche oggi, poi appunto alle 9:30 credo verrà presentato questo rapporto nazionale dal Tribunale del Malato, scopriremo tutte le criticità un po' più specifiche regione per regione. Però con l'assessore Rossi alla sanità toscana leggiamo oggi sui giornali che lei ha messo appunto un provvedimento, da un anno lo sta studiando, e che viene titolato così sui giornali: stop al nepotismo in ospedale. La Toscana sta pensando di fare una legge regionale che impedisca a padri, figli, parenti fino al terzo grado di esercitare dove? Nello stesso reparto, cioè stabilirlo per legge che il nepotismo non può esserci. È una cosa molto controversa e discussa, assessore. Vede, c'è da discutere, perché c'è già un decreto legislativo del 2001 fatto dalla Presidenza del Consiglio, il quale dice che la pubblica amministrazione deve organizzarsi in modo da evitare che sussista il conflitto di interessi dentro un ufficio pubblico. L'ufficio pubblico non è una bottega che si passa di padre in figlio, si accede agli incarichi pubblici per concorso, e questo è sancito dalla Costituzione, e poi è giusto che si evitino condizioni nelle quali possa esserci anche il sospetto di un favoritismo verso un parente, verso un figlio, cosa che naturalmente ci sarebbe. Io, se avessi mio figlio che lavora con me, avrei senz'altro un occhio di riguardo. Siccome io penso che i figli dei professionisti che dirigono i reparti nella sanità toscana, ma anche altrove, siano così bravi da poter notare con le proprie braccia, ecco, è una misura cautelativa basata sul buon senso, quella di dire che nel momento in cui andiamo a fare il contratto per un ricercatore o per un assistente o per un giovane che viene assunto ex novo dopo aver vinto un concorso, si eviti che questo si trovi in un rapporto gerarchico nei confronti del padre. Ma entro al terzo grado, quindi anche il coniuge, poi anche i conviventi. Anche. Conviventi è una dizione giuridica, sì. No, risulta dallo Stato all'anagrafe che si è conviventi, non certo, è che certo. Lo dice qualcuno, lei convive, non sarà questo il punto. E questo farà evitare che renderà tutto più trasparente. Mi sembra che molte volte si discute di come ci siano reparti che rischiano di tramandarsi per via genetica, insomma. Ecco. Mm. E quindi insomma voi lo stabilite così. C'è da dire, assessore, per concludere, che a volte si dice essere figli non è una colpa, e dunque io magari sono nello stesso reparto di mio padre, sono però bravo, se no rischia di diventare una colpa il grado di parentela, così. In un reparto analogo a quello dove lavora suo padre, e in questo senso evitare che si crei un conflitto di interessi. Comunque le assicuro che non lo dico io, lo dice un decreto legislativo della Presidenza del Consiglio e lo dice anche la Costituzione. Ma da conflitto di interessi si può leggere grado di parentela, e questo è il punto forse sul quale si discute. Bisogna adottare una misura cautelativa che è consigliata anche da una lettura della Costituzione, che è consigliata anche da un decreto legislativo, in cui si eviti che la presenza di un rapporto gerarchico possa dare adito all'interno di una struttura a favoritismi o a quant'altro. Tant'è vero, lo stesso decreto legislativo prevede che, qualora questa situazione si crei, il dirigente di quell'organizzazione se ne assuma la responsabilità e risolva questo conflitto. Io penso che è un messaggio importante ai giovani figli di padri eccellenti, perché si misurino con le proprie forze e non impedisce al padre di insegnare al figlio, ma si misurino a campo aperto. E ai giovani che non sono figli di padri eccellenti nelle professioni mediche, ma magari sono eccellenti in altre cose, di sapere che si vive in una società aperta. Lo vado a chiedere negli Stati Uniti, se è possibile. Guardi, lavorare sotto ma lei caro assessore, sfonda una porta aperta. Guardi che io sono d'accordo con lei, abbiamo avuto qualche giorno fa il professor Quirino Paris, che dagli Stati Uniti ci ha raccontato come da lì il mondo universitario italiano, per esempio, appare come veramente una roba lontana, non anni luce ma di più, e quindi insomma io personalmente l'appoggio in questa iniziativa e la ringrazio per essere stato con noi, l'assessore alla salute della Regione Toscana Enrico Rossi, così come Francesca Moccia questa mattina, il rapporto del Tribunale del Malato, cittadinanza attiva 24 mattino. Allora, saluto l'onorevole Massimo Vannucci, buongiorno. Buongiorno. Onorevole del Partito Democratico. Parliamo di notai. Tra l'altro leggo sui giornali che ha una sua lunga battaglia, magari ci spiegherà perché. Sì. Due numeri. I notai oggi in Italia sono 4.723, mentre la pianta organica a pieno regime sarebbe di 6.300 posti. Questi sono i due numeri, no? Da tenere bene. Rettifico il numero della tabella. Quella approvata a novembre del 2008 di 6.152, anche se vedo che il presidente Piccoli ancora insiste che la pianta è di 5.312, ma la tabella approvata dal precedente governo di 6.152. Insomma, ne mancano un po' di notai, e questo il presidente Piccoli, che è il presidente dei notai, lo dice. Lei ha provato insomma a portare all'esame del Parlamento, a dire allora facciamo i concorsi, 600 nuovi concorsi all'anno. Com'è andata? È andata male, perché il Parlamento non ha approvato questa norma. Io partivo da una considerazione, insomma, compito delle istituzioni, in questo caso non ci sono costi, anzi si provocherebbero entrate, la possibilità di far lavorare qualche migliaio di giovani, e io credo che il trend che c'è per i concorsi, per immettere i notai in servizio, sia troppo lento. Le faccio un esempio, gli ultimi concorsi sono questi. C'è stato un concorso bandito il 1 settembre del 2004 per 200 posti, su 200 posti ne sono stati nominati 187, quindi 187 hanno superato l'esame, e sono stati nominati a maggio del 2008, dopo 4 anni. Poi si è bandito un concorso nel 2006 e 230 posti e ancora non sono stati nominati notai, il concorso è ancora in corso. Mm. Abbiamo un altro concorso bandito nel 2008, 350 posti, è ancora appena partito con lo scritto. Con questo trend e con i notai che cessano dal servizio per pensionamento, eccetera, noi abbasseremo sempre di più il numero di notai in servizio se non facciamo un'azione tesa ad immettere velocemente giovani notai. Ma non è possibile fare concorsi da 600 posti, infatti ha ragione. Il presidente Piccoli ha detto chieda a tutti gli esperti oggi intervistato dalla Repubblica. Ma infatti le rispondo subito, perché io avevo proposto di fare il concorso per 600 posti all'anno, ma facendo due commissioni, non una, no? Quindi due commissioni. Vabbè, ma al di là dei numeri, insomma dei tecnicismi, lei ci ha visto che cosa? Perché il Parlamento le ha detto di no, non è che i notai sono entrati in Parlamento a bloccare questa norma, che tra l'altro il presidente Piccoli dice noi vogliamo aprire ai giovani, lo stiamo facendo. Perché, perché ride? Perché sorride? I notai non sono entrati in Parlamento, ma in Parlamento circolano tutte le lobby, insomma, quindi anche questo avrà circolato. Cioè avrà visto qualche persona girarsi a dire bloccate questa cosa. Ma è normale, ma lo fanno tutti, lo fanno dai sindacati, dei lavoratori a quelli dei professionisti, questo è normale che sia così, ci vuole più coraggio. Tra l'altro io parto da una considerazione, io sono uno strenuo difensore della categoria dei notai, la ritengo molto utile, nell'opinione diffusa la gente ti dice io questa cosa l'ho fatta dal notaio ed è più tranquillo che averla fatta dal catasto, da un ufficio pubblico. Però dice c'è un po', nota un po' troppa chiusura, no? A proposito di Italia di corporazione. Ma è evidente, perché il 30% in meno praticamente di notai permettono a quelli in servizio di fare il 30% del lavoro in più. Questo con un danno per i cittadini, perché hanno servizi più lontani, meno concorrenza, meno velocità. Io le cito un caso, io ho scoperto tutta sta cosa avendo fatto il sindaco di Macerata Feltre, che è sede notarile, nella quale non c'è il notaio da 20 anni. Perché non c'è il notaio? Perché la pianta organica non è completa, quindi i notai che vengono nominati scelgono sedi più appetibili, quelle più grandi, quelle nelle città, e questo provoca un disservizio. Ma no? Perché lei va avanti da anni, leggo una sua battaglia, cioè cos'è, ne ha fatto un punto d'onore, insomma, si vede impallinato sempre su questa cosa dei notai? Sembra una questione di giustizia. Io feci già un question time con un ministro amico che era Mastella, no? della mia stessa. Sì, e che tra l'altro credo promise nell'audio: sì, ci saranno, arriveranno più notai. Poi vabbè, sappiamo che quella è una vicenda politica finita per altre però, vie. Il presidente governo di fatto aumentò la tabella 6.152 sedi notarili, e il concorso che è bandito del 2008 lo ha bandito a 350 posti, quindi anche in contraddizione con quello che dice presidente Piccoli, che più di 250 persone non si possono fare. L'ultimo concorso che abbiamo in corso è per 350. Io credo che sia la possibilità di far lavorare più giovani. Se la pianta organica fosse completa o fosse aumentata, io credo che i notai svolgono un servizio molto importante. Infatti se lo chiedono anche paesi che non ce l'hanno. Il dibattito negli Stati Uniti dopo i subprime, dopo che regole sono saltate sul fatto che non ci sia la professione del notaio, sta andando avanti. Sì, d'altra parte però, come ci scrivono gli ascoltatori, lì dove non ci sono costa la burocrazia, gli atti costano pochissimi, sono accessibili alle tasche di tutti, però lei dice c'è meno garanzia perché l'avvocato, il commercialista, per definizione è uomo di parte, no? Difende una parte, il notaio è un pubblico ufficiale che è terzo, insomma, ed è una garanzia. Le volevo dire che se i notai fossero più disponibili, no? A difendersi meno al ribasso, come in questo caso, si potrebbero vedere di affidare loro anche cose in più, ad esempio cose che fanno i magistrati sgravando la giustizia. C'è un do des, cioè arroccatevi meno e noi vediamo un po' ma più. Ma certo, perché ogni tanto prendono un colpo, e i commercialisti gli tolgono cose, gli avvocati gli tolgono cose, mentre invece la professione potrebbero fare cose che invece fanno i magistrati, le separazioni consensuali, tante cose, dando più fluidità sta anche la giustizia, voglio dire. Va no? bene. Allora, onorevole Massimo Vannucci, lei va avanti nella sua battaglia, se ne ha ancora la forza, anche se viene, trova un po' un muro di gomma, almeno nelle proposte che fa, in questo caso per l'apertura, insomma, maggior numero di notai in Italia. La ringrazio, ovviamente buona giornata anche a lei, onorevole del Partito Democratico. Ci fermiamo qui. Tra poco Giuliano Ferrara parla della vicenda, insomma, ormai nota, rinota, di cui parla un po' tutta Italia, Silvio Berlusconi, Veronica Lario. Noi, ringraziando Laura Marchese, Alessandro Marcotulli in redazione e Carmelo Lauricella in regia, ci ritroviamo domattina.